Con Margherita Hiti di Teodora Film, che distribuisce il film American Animals al cinema da giovedì 6 giugno 2019. Margherita, ben trovata. Ciao, ciao a tutti, ben trovati, grazie mille. La trama in breve la raccontiamo? Sì, volentieri. American Animals è tratto da una storia vera che ebbe luogo, diciamo, in fine anni 90 a Lexington, in Kentucky, dove un gruppo di universitari neolaureati decide di mettere in piedi un colpo abbastanza strampalato, ovvero di rubare il libro più costoso al mondo, tuttora custodito nella biblioteca della città. E ovviamente le cose non vanno esattamente come le avevano programmate. Di questo regista cos'altro conosciamo? Conosciamo il suo primo film, che è un documentario bellissimo che sicuramente avrete visto, che uscì in Italia con Feltrinelli una decina di anni fa, si chiamava The Imposter, l'impostore, ed era sempre tratto da un evento di cronaca vera. In quel caso era un documentario puro, qui invece diciamo che ha fatto un salto verso un genere misto. E se non l'avete visto ve lo consiglio perché è veramente notevole. Genere misto perché ci sono anche i veri protagonisti della vicenda Esatto, intervistati. perché si affianca alla ricostruzione fictional dei fatti, delle interviste contemporanee, quindi ai protagonisti invecchiati di qualche anno, diciamo, che raccontano come andarono i fatti. È molto interessante, come è la cosa che ci ha affascinati e colpiti di più del film, diciamo, e devo dire anche la cosa più sottolineata in termini positivi anche dalla critica, questa commistione fra il genere documentario e quello fictional. Va detto che Bart Layton è un documentarista di primissimo livello, cioè The Imposter è un documentario, ma non te ne accorgi nemmeno praticamente. Oh, in parte già l'hai accennato, però volevo sapere cosa ti ha impressionato maggiormente in positivo di questo lavoro. Io diciamo che seguivo Bart Layton perché appunto il suo primo film mi aveva colpito davvero molto e quindi appena insomma, è uscito American Animals negli Stati Uniti, è stato presentato al Sundance Film Festival, lo abbiamo visto, seguito e alla fine preso perché comunque ci interessava questo regista che è molto potente. Il film ha un ritmo davvero incredibile, una colonna sonora pazzesca, degli attori di primissimo livello, ben diretti, e ha questa commistione appunto fra il documentario e il fictional che trovo estremamente interessante. Quello che fa impressione, sentendo anche le parole dei veri protagonisti, è questo ritratto di Sempliciotti, che comunque, nonostante un piano strampalato, erano quasi riusciti nell'obiettivo. Erano quasi riusciti, sì, infatti una delle cose che un paio di critici hanno sottolineato era così, un po' ironicamente, il fatto che questo libro, che è oggettivamente a tutt'oggi il libro più costoso al mondo, che ha più valore, diciamo, ovviamente non ha un valore commerciale, ha un valore di per sé, sia custodito o almeno fosse custodito in maniera così approssimativa. Un'altra delle cose che comunque mi ha affascinato molto del film è questo ritratto di gioventù a cui non manca nulla, no? Alto borghese, educata, che ha studiato, neolaureata da famiglie benestanti, a cui manca qualcosa e questo qualcosa lo va a cercare in una missione assolutamente strampalata, ma molto ben organizzata. Poi va male, perché ovviamente, insomma, però va detto che insomma, organizzata benissimo, poi chi ha visto il film lo sa, insomma, non hanno lasciato quasi nulla al caso. Margherita, dove avete incontrato questo lavoro? A Berlino, subito dopo la presentazione al Sundance, ci fu una proiezione di mercato, solamente di mercato al Festival di Berlino, che è un mese dopo il Sundance praticamente. Lì ci è piaciuto molto. Quindi, ovviamente. All'estero dove è uscito? Sicuramente ovviamente negli Stati Uniti dove è andato piuttosto bene, si tratta di un piccolo film indipendente, quindi non è una mega produzione, però è andato molto bene per il tipo di taglio, diciamo, produttivo del film. Non sono preparata sugli altri paesi, confesso. Scherzo. Che uscita sarà? In quante sale? Intanto facciamo un primo weekend weekend piccolo, perché poi con questo tempo, insomma, molti andranno al mare questo weekend, è arrivato il momento drammatico per noi distributori in cui vanno tutti al mare e quindi ci manteniamo su 25 copie buone. E allora ricordiamo l'uscita del film American Animals di Burt Layton da giovedì 6 giugno 2019 in sala con Teodora Film. Un saluto e un ringraziamento a Margherita Chiti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie il lupo, grazie a voi, a presto. Ciao.